Yo, prima skit e nuovo viaggio. Assisto il rap proprio come fossi un paggio. Scrivo le rime in queste tristi sere. Combatto paranoie e mi sento un cavaliere. Da solo nella stanza a cantare e a ballare. Se fosse il medioevo avrei fatto il giullare. Con visioni e storie distorte da raccontare quando sto alle corte. Voglio sapere se ci hai pensato a tutti i soldi che ti incula lo Stato. Ci trattano poco come dei fessi, volte facce diverse ma i programmi sono gli stessi. Chi sa il potere è un vero ingordo, tu fai finta di votare ma so tutti già d'accordo. Merda il governo con il maxi stipendio, ci vuole rivoluzione, non basta il vilipendio. Solo più guardie e polizia, dove sta finì la democrazia? Non c'è più religione, hai visto il papa, è proprio un nazistone. Questo è avvilente ed è una follia, sta chiesa difende pure la pedofilia.